pagina che da te, senza indugio e pena, è la nostalgia raccolta dai tuoi occhi scuri, è così calda come l'estate a settembre. Vengo ogni notte da te, mi appartieni per il tempo, che è una stella casta, si è inghiottita in un oscuro flutto del tempo. Mi appartieni come i miei passi appartengono alla pianura. E non so dirti cosa ho fatto di me, non so dirti cosa ho fatto di me. Dopo che hai afferrato le mie mani e hai cercato pace e piacere, sì, pace e piacere su di me. Vengo di notte da te e prendo il tempo che c'è e trovo dentro di te cose di me che non so. Ed ogni volta si intrecciano braccia, umori ed emozioni, e sul tuo corpo ritrovo la strada che porta fino a qui. Ogni notte da te, ogni notte da te, per liberarti dal tuo guscio, e come pane sacro afferro la fragile lampada del tempo, per vedere la tua immagine mentre ancora mi sorridi. Di me, non so dirti cosa ho fatto di me. Dopo che hai afferrato le mie mani e hai cercato pace e piacere, sì, pace e piacere su di me. Vengo ogni notte da te e prendo il tempo che c'è e trovo dentro di te cose di me che non so. Ed ogni volta si intrecciano braccia, umori ed emozioni, sul tuo corpo ritrovo la strada che porta fino a qui, sì, fino a qui, ogni notte da te. Ogni notte da te.